Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un grande scrittore russo, Vladimir Nabokov, uno dei più grandi autori del Novecento, certamente, il quale è protagonista, non autore in questo caso, di un insolito libro tra il romanzo e il saggio che gli ha dedicato una sua appassionata lettrice. Parliamo infatti di un'autrice, una scrittrice di origine iraniana ma cresciuta in Francia, attualmente residente a New York, Lila Azam Zanganeh, la quale ha pubblicato con l'Ancora del Mediterraneo il libro Un incantevole sogno di felicità, Nabokov, Le farfalle e la gioia di vivere, 224 pagine, 18,50 euro, ed è tradotto da Stefania Rega. Leggiamo per reincantare il mondo, dice la scrittrice. Ma per farlo, aggiunge la scrittrice, dobbiamo indovinare i libri che desideriamo con il cuore o di cui abbiamo realmente bisogno. E lei ci è riuscita, con Nabokov appunto, che è riuscita a farle assaporare l'autentica felicità, scrive infatti l'autrice, che Vladimir Nabokov, con il suo genio linguistico e la sua grazia trilingue, me l'ha fatta sentire, la felicità, con un'intensità che non avevo mai sperimentato con nessun altro scrittore. E allora il libro ci invita a misurarci con Nabokov in una sorta di sfida che si snoda nei vari capitoli del libro, ciascuno dei quali cerca di coinvolgere il lettore, di metterlo in gioco in un dialogo continuo con lo scrittore russo. Ma facciamoci spiegare dalla scrittrice le ragioni di questa sua passione. Buongiorno a Lila Azam Zanganeh. Buongiorno. Lila Azam Zanganeh, lei vuole celebrare in questo libro la felicità con Nabokov. Ecco, come spiega questo collegamento di Nabokov all'idea di felicità? Sì, perché lui, il scrittore soprattutto dello sguardo, è un certo sguardo luminoso sulle cose della vita. Si potrebbe anche vedere tanta scurità, ma la verità è che pagina dopo pagina, quando uno legge Nabokov, si rende conto di questo vocabolario straordinario della luce. E la chiave veramente è questa cosa. E allora, se noi possiamo guardare il mondo con tutti i dettagli che di solito non vediamo, incominciamo a vedere dei motivi più o meno anche artistici nella vita, che ci mostrano che c'è un altro lato dove forse c'è anche un sogno di bontà, un sogno di qualcosa che sta anche forse creando il mondo mentre noi lo guardiamo. Lei collega la sua ossessione, per usare il termine che lei stesso ha usato, per Nabokov, con la sua particolare esperienza di esule involontaria dall'Iran. Ecco, che nesso c'è tra Nabokov e il proprio passato? Sì, c'è un legame, certo noi siamo iraniani e i miei genitori sono usciti al tempo della rivoluzione islamica, come la famiglia di Nabokov fuggirono nel 1919, 2 anni dopo la rivoluzione russa, e allora c'è certamente questo grande senso di nostalgia, perché lui veniva di San Pietroburgo nel nord della Russia, come noi veniamo anche nel nord dell'Iran, e c'è questa memoria molto coinvolgente di questi laghi, dei boschi verdi. È una cosa veramente non immaginatevi lasciare il paese e sapere che uno non ci va mai più, e dunque anche questa memoria del paese diventa un sogno, diventa qualcosa che uno certamente si immagina di nuovo tutti i giorni, ma anche scrive libro dopo libro, anche quando lui scrive dell'America, anche quando lui scrive di paesaggi nuovi, sempre ci pensa di nuovo a questa Russia, ma anche perché in quei boschi vicino a San Pietroburgo, e anche se si è anche innamorato di una giovane ragazza di 15 anni che si chiamava Lucia Shulgin, e questo primo amore, questa ragazzina adolescente che di nuovo torna in tutte le opere, non è una questione di pedofilia, ma veramente questa prima memoria molto molto potente della Russia e di questa ragazzina insieme, del primo amore, del primo momento di sensualità. Nei titoli dei capitoli del suo libro c'è un continuo rimando tra Nabokov e il lettore, e quindi quest'ultimo come può affrontare questo libro? Perché sì, anche c'è questo gioco, perché all'inizio lo scrittore ovviamente Nabokov, il lettore sono io, e poco a poco il lettore, veramente questo libro è a metà fra il romanzo e il saggio, perché Nabokov odiava le cose molto didattiche, e per quello ho dovuto fare un libro molto giocoso, anche certe volte un po' spiritoso, anche bizzarro, e dove ci sono tanti giochi, poesie, un po' di saggio, un po' di romanzo, tanta finzione, anche Alice nel Paese delle Meraviglie. E allora poco a poco quello che succede è che il lettore, che ero io, prende il potere e trascina questo mondo in fantasia, e tutto un tratto diventa lui lo scrittore, e dunque il lettore del libro, anche lui, è incoraggiato a sognare questo mondo con una tale realtà che poco a poco anche lui diventa creatore. E questa cosa è un termine veramente nabokoviano, perché lui voleva che il lettore diventasse quello che chiamava lettore creativo. E veramente il lettore creativo è quello che si riimmagina il mondo letterario e dopo lo fa suo, e dunque diventa anche lui un po' artista. Come ci ha detto anche in questa intervista, lei ricorda nel libro che Nabokov pensava per immagini, e allora nasce anche da questo l'attrazione dello scrittore per le farfalle? Sì, certamente, ma quello dall'infanzia, perché quando incominciò a guardare le farfalle era anche il suo padre che era un appassionato, e dunque certo lui sempre fa questo legame che noi non facciamo molto spesso, ma che esiste veramente nella mente di Nabokov fra l'arte e la scienza. Non ci sono grandi differenze, perché lui parlava sempre della passione dello scienziato e della precisione dell'artista, e diceva che veramente sia l'arte che la scienza hanno questi dettagli, queste cose splendide, questa magia dove che c'è qualcosa più o meno di gratuito, qualcosa che il mondo ci offre senza nulla da pagare, veramente solo da guardare, da godere, da capire qualcosa del mistero della poesia delle cose. Grazie a Lila Zanzangane, autrice di Un incantevole sogno di felicità. Buona domenica. E di Vladimir Nabokov è uscito da Adelphi L'incantatore, 116 pagine, 14 euro, curato dal figlio Dmitri Nabokov. Questo è un racconto del 1939 che lo scrittore ritrovò dopo molti anni, era convinto di averlo gettato via. Lo ritrova, se ne reinnamora, ne propone una traduzione nel 1959 in inglese per il mercato soprattutto americano. E il libro prefigura in qualche modo il clima di Lolita. Nabokov scrisse anzi che esso rappresenta il primo piccolo palpito di Lolita. Qui il protagonista si fa incantare da una ragazzina di 12 anni, e tale la passione e la voglia di starle vicina che addirittura progetta, riuscendoci, di trasformarsi nel suo patrigno. E quindi vediamo il rapporto con la bambina, ma soprattutto con la madre, per appunto avvicinarsi alla sua preda. E poi seguiamo la storia, che avrà un epilogo a sorpresa e che è perfetta la storia nel rendere le spire della passione, dell'ossessione anzi, nella quale il protagonista passo dopo passo, riga dopo riga, precipita. Se non la felicità di cui parla Azam Zanganeh, certamente qui apprezzeremo la grande capacità di Nabokov di descrivere la psicologia di questo personaggio, un personaggio diviso tra l'umano e il ferino, che si vede come il lupo di Cappuccetto Rosso, ma che vorrebbe respingere questa sua dimensione. E scrive infatti il figlio di Nabokov nella postfazione a questo libro che l'incantatore, il personaggio, per quanto possa essere un mago perverso, abita in qualche misura un mondo incantato, e che sia un comune pazzo o no, egli vede se stesso su un piano particolare, poetico, come un re folle, sa dopo tutto di essere folle, un re che è una specie di libidinoso Lear che vorrebbe vivere in un isolamento fiabesco vicino al mare con la sua piccola Cordelia. La vede per un fuggevole istante come una figlia innocente e innocentemente amata. Al solito però il sentimento paterno sfuma presto in quello infernale. La bestia dentro di lui si immerge in una fantasia pedofila così intensa che le sue conseguenze obbligano una passeggera seduta nello stesso compartimento ferroviario a trasferirsi altrove. Troveremo nel libro anche lo stile limpido, secco, che appunto descrive questa depravazione del protagonista in maniera perfetta, secondo me. Sentiamo per esempio dal libro l'entrata in scena appunto della protagonista, la ragazzina quasi sempre assente e silente fino alle ultime righe, che sconvolgerà la vita dell'uomo. E qui si alza il sipario. Vestita di viola, una ragazzina dodicenne, lui non si sbagliava mai sull'età, avanzava rapida e decisa sui pattini che, invece di scorrere, schiacciavano la ghiaia facendola scricchiolare, mentre lei li sollevava e riabbassava con passetti giapponesi, avvicinandosi alla panchina attraverso l'alterna fortuna del sole. In seguito, finché quel giorno durò, gli sembrò di averla apprezzata tutta, dalla testa ai piedi, subito, in quel primo attimo. La vivacità dei riccioli castano ramati, freschi di taglio, la luminosità dei grandi occhi un po' vacui, che ricordavano in qualche modo la trasparenza dei chicchi di uva spina, l'incarnato caldo e gioioso, la bocca rosa appena socchiusa talché i due incisivi superiori appoggiavano appena sul labbro inferiore sporgente, la bronzatura estiva delle braccia nude con quella liscia, sottile peluria volpina sugli avambracci, La vaga tenerezza del suo petto, ancora acerbo, ma già non del tutto piatto. Il muoversi e il morbido ricadere delle pieghe poco profonde della gonna. L'ardore delle gambe slanciate e non curanti. Le ruvide cinghie dei pattini. Un altro mostro sacro del Novecento troviamo nel romanzo di Stephanie Barron, Virginia Woolf e il Giardino Bianco, è pubblicato da Tea, 288 pagine, 12 euro, tradotto da Simonetta Orsi. L'autrice è nota per la serie di libri dedicati alle indagini di un'altra grande scrittrice, questa dell'Ottocento, Jane Austen, e qui invece apre uno squarcio sorprendente sulle ultime ore della grande Virginia Woolf, che, come ricorderete, morì suicida. Nel libro una studiosa arriva nella casa di campagna per studiare il famoso giardino, appunto il Giardino Bianco, che tanto appassionava la scrittrice, e vi scopre in questa casa una pagina di diario tenuta fino allora nascosta che riaprirebbe tutte le ipotesi sulla morte della Woolf. E da qui scaturisce una trama quasi poliziesca per venire a capo di questo mistero. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso vi propongo un montaggio di libri che hanno come oggetto i mezzi di locomozione. E cominciamo con l'aereo, al quale sono stati dedicati di recente due libri che raccontano alcune avventure che possono capitare ad alta quota. Il primo è il libro di un pilota col gusto della scrittura, Pietro Pallini, che ha scritto per Einaudi Allacciate le cinture, i segreti del volo raccontati da un pilota, 256 pagine, 12,50 euro. Questa è una sorta di guida al volo per il viaggiatore che voglia capire che cosa succede nell'aeromobile che lo sta trasportando, come fa a volare, quanto consuma quell'aeroplano, come gli aeroplani riescono a seguire la rotta, perché molto spesso ritardano, e tanti altri quesiti pratici ai quali il nostro pilota dà qui una risposta. Questo libro fa un po' il paio con uno apparso qualche anno fa di Imogen Edwards-Jones, una scrittrice inglese che ha dato vita a una serie accomunata dalla parola di Babylon, in cui ha esplorato il mondo della moda, degli stabilimenti balneari e degli aerei, appunto. E questo libro si intitola Air Babylon. È scritto con un personaggio che lavora in una compagnia aerea che ha voluto mantenere l'anonimato, ed è pubblicato da 091, 352 pagine, 15 euro, tradotto da Romina Valenza. In queste settimane ha suscitato un grande scalpore, a proposito di libri scritti da piloti, quello di un francese, Jean-Pierre Otelli, che sta scrivendo anche lui una serie di libri, questi tutt'altro che romanzati, sugli errori dei piloti, errori che hanno provocato dei disastri. Infatti l'ultimo libro di questa serie, che si intitola Erreur de pilotage, è dedicato all'incidente che provocò la morte di oltre 200 persone dell'aereo che volava da Rio de Janeiro a Parigi. Questo è pubblicato da Altipress, 24 euro l'edizione francese. È un libro, dicevo, che ha suscitato molte polemiche perché vi ha pubblicato Otelli per la prima volta l'integrale registrazione delle conversazioni degli ultimi minuti dei piloti, e le associazioni dei familiari dei piloti defunti in quell'incidente hanno protestato perché hanno considerato questo una violazione alla privacy dei loro congiunti. Dopo il pilota, invece, ci sono due assistenti di volo che si sono misurati con la scrittura. Il primo è donna, Gloria Bolognini, Passeggeri a spasseggio, si intitola il libro, pubblicato da Nober, 160 pagine, 10 euro, che raccoglie una serie di battute, di aneddoti sulle esperienze vissute dalla scrittrice, dall'autrice, nell'assistere i passeggeri. L'altro è di un ex assistente di volo, Marco Ponzi, ormai convertitosi alla scrittura, che con Greco e Greco pubblica Perché diffidare degli assistenti di volo, 206 pagine, 11 euro. Anche questi libri nascono, soprattutto il secondo, da una serie di esperienze dirette. In particolare il secondo spiega piuttosto come si forma l'esperienza dell'assistente, cosa spinga questo lavoro, e racconta qui Ponzi molte sue esperienze, volte soprattutto a spiegare come stia cambiando l'industria aeronautica e la politica delle compagnie nei confronti dei viaggiatori. Se con l'aereo scendete a Parigi, non potrà mancarvi il curioso libro di uno dei maggiori scrittori francesi del Novecento, Raymond Queneau, che visse tra il 1903 e il 1976, autore di libri molto celebri come Zazzina al metrò e I fiori blu. Tra il 1938 e il 39, per arrotondare il salario, come spiega lui stesso, Queneau si inventò una rubrica su uno dei più diffusi allora quotidiani di Parigi, L'Intransigeant, dove ogni giorno faceva delle curiose domande su Parigi, appunto, alle quali poi rispondeva il giorno dopo. chi era il Père Lachaise, quando furono concluse le distruzioni delle fortificazioni, in quale casa morì Molière, dove visse Rossini, quale edificio apparteneva ai vescovi cattolici d'Inghilterra, da quale porta passarono gli assalitori della Bastiglia e insomma tantissime altre domande. Questo libro che adesso vi presento ne troviamo 450, tutte poi con la loro rispostina, spesso telegrafica, del grande scrittore. E quindi la raccolta di questa rubrica è pubblicata nel libro Conosci Parigi di Raymond Queneau, tutto quello che devi assolutamente sapere, pubblicato da Barbès, 232 pagine, 15 euro, tradotto da Antonella Conti. Nell'edizione italiana, tra l'altro, troviamo un appendice con alcune segnalazioni turistiche per ogni arrondissement di Parigi, e quindi troviamo alberghi, bar, ristoranti e mete insolite, quindi questo è davvero uno strumento utile e prezioso per cogliere di Parigi particolari insoliti, gustosi, ma anche per capire un po' del mondo moderno, come ci dimostra per esempio il quesito numero 113 che ora vi propongo naturalmente con la sua risposta. In che epoca fu aperto il primo ristorante di Parigi? Il primo ristorante parigino fu fondato nel 1766 in Rue des Pulis. Vi si vendeva un consommé restaurant, ristoratore, detto brodo dei principi. A differenza dei locandieri, che servivano i pasti solo a ore fisse e ad avventori a pensione, i ristoratori erano aperti tutta la giornata, ma potevano servire solo minestre, uova, pasta e piatti leggeri. Questa distinzione scomparve di lì a poco con la rivoluzione. Dall'aereo passiamo alla Vespa. C'è un libro che racconta la cronaca di un viaggio negli Stati Uniti che è stato compiuto appunto sulla Vespa, e il libro di Giorgio Serafino che racconta l'America in Vespa da Chicago a Los Angeles sulla Route 66. Mursia, 196 pagine, 16 euro. Il viaggio è stato effettuato a bordo di un Vespino del 1978 che era quasi ridotto a un rottame e che l'autore stesso ha restaurato. E qui troviamo la cronaca di questo viaggio, punteggiata da incontri stranissimi, come quello di un motociclista che, colmo di ammirazione per l'impresa che lo scrittore e sua moglie stanno compiendo, regala all'autore $20 perché se li giochi a Las Vegas come segno di ammirazione appunto per la sua impresa. Un altro mezzo meccanico che dà il titolo a questo libro è il trattore. Il libro si intitola Un trattore arancio, l'autore è Giorgio Conte, un appassionato jazzista che alla musica ha sacrificato la professione di avvocato, come mi pare del resto sia successo al fratello Paolo. Il libro è pubblicato da Cairo, 110 pagine, 10 euro. Qui troviamo una serie di ricordi dell'Italia degli anni 50, nei quali si trascina ancora l'esistenza di un mitico trattore, appunto del 1938, che rivivrà una seconda giovinezza sul finire del libro, e questo naturalmente è l'occasione per raccogliere alcuni bozzetti, alcuni episodi di quegli anni lontani di un'Italia provinciale e forse più tranquilla. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Massimo Piattelli Palmarini, che è uno dei maggiori studiosi di scienze cognitive, chi crediamo di essere, come i sogni, i ricordi e le moderne teorie della mente ci aiutano a scoprire la nostra natura profonda. È pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 18 euro. Il libro ha un obiettivo chiaro, non certo dare la chiave per capire, per cogliere la conoscenza di noi stessi, ma offrire due spunti di riflessione, soprattutto alle luci delle ultime scoperte scientifiche. Il libro ha un obiettivo chiaro, non certo la chiave per comprendere noi stessi, ma semplicemente dare alcuni spunti di riflessione alla luce delle ultime scoperte scientifiche in questo ambito. Vi segnalo poi di Laure Segal, che è una scrittrice austro-inglese-americana, Lucinella, è pubblicato da Cargo, 184 pagine, 18,50 euro, tradotto da Natalia Stabilini. Questo è un romanzo divertente, ambientato nella New York degli anni 60 e 70, che prende di mira soprattutto gli ambienti intellettuali e culturali di quel periodo. E infine il romanzo di esordio di un medico, anzi di una medica, Alessia Gazzole, pubblicato da Longanesi, si intitola L'allieva, 374 pagine, 18,60 euro. Qui l'autrice si esercita con un giallo che ha per protagonista di nuovo una donna medico legale che, con questo caso che affronta appunto in questo libro, rafforzerà la propria vocazione. E a questo punto... Il confettino. Qui parliamo invece di un naviglio, quello del Capitano Nemo, che ritorna nelle interpretazioni di Dave Eggers con le illustrazioni di Fabianne Green. È pubblicato da Scuola Holden, 102 pagine, 12,90 euro, e tradotto da Arianna Giorgia Bonazzi. Questa è una rivisitazione moderna del capolavoro di Giulio Verne. È scritta soprattutto, come spiega l'autore, per intrigare il lettore al punto di indurlo alla lettura dell'ineguagliabile testo originale. Quindi immergetevi in questo testo per poi approdare al capolavoro di Giulio Verne. E con questo ringrazio Stefania Tagliaferri, redazione, e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.